Aldeon per la conferenza di presentazione della nuova stagione. Sono con i mitici Malandrino e Veronica, un punto saldo veramente della comicità bolognese che ci accompagnano ormai da moltissimi anni. Siamo appena reduci dall'estate con l'autobus rosso che tradizionalmente gira con i loro spettacoli o intrattenimenti all'interno. E saranno qui al Deon, facciamo dire a loro le date perché cominciano a ottobre, ma poi ci sarà anche la serata di Capodanno e altre. Sì, faremo qua il 22 e il 23 ottobre e poi a Capodanno e i giorni intorno a Capodanno siamo al Teatro Deon con questo spettacolo, Il mio peggiore amico, scritto dal mio socio Paolo Maria. È un testo un po' cucito su di noi, ma che una volta che si svolge spazia in argomenti che interessano chiunque, perché chiunque di noi ha vissuto l'amicizia, la inimicizia e le altre cose che capitano a degli amici veri. Sì, infatti Malandrino diceva in conferenza, l'autore dello spettacolo è Paolo, ma realmente l'ha scritto pensando a me. Beh sì, perché sai, è proprio la nostra vita, abbiamo fatto un sacco di cose, un sacco di esperienze, però non necessariamente, voglio dire, chiunque veda lo spettacolo si può ritrovare assolutamente in questi due personaggi, che poi chiaramente sono stati un po' mediati proprio per quello che è l'esigenza di spettacolo, ma i temi, l'amicizia, la sessualità, le donne, tutto quanto sono argomenti universali su cui, ripeto, molti, soprattutto della nostra generazione, possono sicuramente vedersi senza indugio. Rispecchiarsi, si Rispecchiarsi, rispecchiano esatto. totalmente. Sarete solo voi sul palco, immagino. Sì, siamo solo noi, è uno spettacolo a due, c'è la regia di Piero Ferrarini che quest'anno ha preso in mano il È anche testo. uno spettacolo faticoso, quindi non so se stramazzeremo durante lo spettacolo, però insomma. Ragazzi, io vi vedevo all'epoca del Retamarro, Sì. quindi No, vabbè, a ma livello di fatiche ne fatica. abbiamo fatte, è vero, ma l'età comunque avanza, quindi. No, però c'è una cosa, che quando andiamo sul palco, non so per quale miracolo, una sorta di energia, oddio, adesso magari è un po' residua, però c'è sempre e ti fa lavorare bene. Energia residua che però mi sembra ancora consistente. Quindi Un 22 e weekend. 23 ottobre. Poi dicembre. Poi dicembre, Dicembre ovvero, cos'è? Mi pare il 28, mi 29, pare, 30. E Capodanno. Capodanno, il 5, 6, 7 e 8 gennaio. Gennaio. Perfetto, praticamente una tournée stanziale al Deon. Esatto. Benissimo. Ciao ragazzi. Grazie a tutti No, gli volevo fare i ascoltatori. complimenti a Radio Sì, Fucico, perché è davvero. una gran radio, bella, io l'ascolto, è una delle poche radio che ascolto sempre. Davvero, grandi complimenti.